Ad alta voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Quarta puntata. Andai dunque a Brema, che non conoscevo. Amburgo la conoscevo e la amavo allora come oggi. Brema invece mi fece orrore sin dal primo momento. È una città piccolo borghese insopportabilmente sterile. Proprio di fronte alla stazione mi avevano riservato una camera in un albergo costruito da poco, non so più come si chiamasse quell'albergo. Mi rintanai nella mia camera per non dover vedere la città di Brema e attesi che giungesse la mattina della consegna del premio. La consegna avrebbe avuto luogo nel municipio, secondo il programma, e infatti lì ebbe luogo. Il mio problema più grosso era che mi avevano chiesto di tenere un discorso davanti all'uditorio e adesso ero già a Brema e ancora non avevo nemmeno un'idea per quel discorso di cui pure già sapevo da settimane. E l'idea non mi venne nemmeno nella notte e neanche l'indomani ne avevo una. Ora però urgeva trovarla. Durante la prima colazione mi venne in mente che a Brema erano legati i quattro musicanti e abbozzai nella mia testa un discorso al cui centro stavano i quattro musicanti di Brema. Finii di bere il mio tè e tornai di corsa in camera e mi sedetti sul letto e feci una scaletta. Feci una seconda scaletta e una terza. Dovetti poi riconoscere che la mia era stata una cattiva idea e farmene venire un'altra, ma il tempo stringeva. Frattanto avevano già telefonato per chiedere quanto durasse il mio discorso. Non molto, dissi all'apparecchio, davvero non molto, così dissi, benché non avessi ancora trovato neppure un'idea per quel discorso. Mezz'ora prima dell'inizio della cerimonia in municipio mi sedetti sul letto e scrissi la frase: con il freddo la chiarezza aumenta. Adesso ho un'idea accettabile per il mio discorso davanti all'uditorio, pensai. Veloci si svilupparono intorno a questa frase centrale un paio di altre frasi e nel giro di 10 o 12 minuti avevo pur sempre riempito una mezza paginetta. Quando vennero a prendermi per condurmi al municipio, avevo appena terminato di scrivere il mio discorso. Con il freddo la chiarezza aumenta, pensavo mentre un paio di signori mi scortavano fino al municipio. Avevo l'impressione di essere tradotto in tribunale per un'udienza. Avevano preso in mezzo il loro detenuto e dall'albergo lo menavano in centro al municipio. Il municipio era già al completo, gremito soprattutto di scolaresche. Anche quello di Brema era un municipio famoso, ma anche quel municipio mi opprimeva come sempre mi avevano oppresso tutti gli altri municipi famosi. Anche qui rifulgevano le onorificenze e scintillavano i collari dei borgomastri. Fui condotto solennemente in prima fila e dovetti prendere posto accanto al borgomastro. Un uomo salì sul palco e parlò di me. Era venuto da Francoforte apposta per parlare una mezz'ora del mio libro di prosa. Parlò con molta convinzione e furono solo lodi per quanto mi ricordo, ma io non capii niente di quello che diceva. Per tutto il tempo vidi davanti a me soltanto i miei quattro muri di Natal e pensai a come avrei fatto a pagarli coi quattro muri, che debba sempre andare tanto per le lunghe prima che il denaro finalmente scorra, pensavo. Quando l'oratore ebbe finito e soprattutto gli scolari, a quanto pareva, batterono le mani entusiasti, mi fu fatto segno di salire sul palco. Sul palco mi porsero l'attestato del premio, di cui oggi non ricordo più che aspetto avesse. Non lo posseggo più, come non posseggo più nemmeno tutti gli altri attestati dei premi ricevuti. Sono andati persi nel corso degli anni. Ora avevo in mano l'attestato e il mio assegno e andai al podio dell'oratore e lessi i miei appunti sulla chiarezza che aumenta con il freddo. Appena l'uditorio cominciò a disporsi all'ascolto, il mio discorso era già belle finito. Era il discorso più breve che mai vincitore del premio Brema avesse fatto, pensai, e dopo la cerimonia ne ebbi la conferma. Rimasi lì e dovetti nuovamente scambiare strette di mano con il borgomastro a uso dei fotografi. Fuori nel corridoio mi si parò davanti, all'improvviso, del tutto inatteso, il mio vecchio amico, il redattore che aveva accettato Gelo nel giro di 3 giorni. E non appena si vide completamente solo con me, mi disse, in certo qual senso, in confidenza, «Per favore, prestami 5.000 marche, ne ho urgente bisogno». «Ma certo», dissi io, senza rendermi conto delle conseguenze, e aggiunsi che subito dopo le 2, quando le banche di Brema avessero riaperto, sarei andato con lui in una banca a cambiare l'assegno e gli avrei dato i 5.000 marchi. «Quante volte mi ha prestato lui del danaro», pensai, «tante e tante volte, e non molto tempo fa mi ha salvato da una delle mie fatali catastrofi finanziarie». Subito dopo la cerimonia ci fu il pranzo in un ristorante chic di Brema, che io lasciai alle 2 per andare in banca con il mio amico a cambiare l'assegno del premio per Gelo. Da Brema vado pur sempre a Gießen a tenere una conferenza in un cosiddetto centro culturale evangelico e lì mi daranno 2.000 marchi, pensai. Così ne avrò pur sempre 7.000. Questo pensiero mi rese subito di nuovo felice. Il giorno dopo ho fatto visita a Brema a un altro mio amico che abitava lì in una mansarda e con lui, davanti a una buona tazza di tè e con la vista sulla Plumbe a Vese, ho avuto un'eccellente conversazione sul teatro. Abbiamo parlato soprattutto di Artaud. Subito dopo quella conversazione sono ripartito per Vienna e, come naturale, non vedevo l'ora di entrare fra i miei 4 muri appena comprati a Natal. In che modo ne abbia preso infine possesso e sia riuscito bene o male a ristrutturarli e restaurarli con le mie stesse mani e anche a finanziarli nel corso degli anni, non è questa la sede per parlarne. Ma il premio Brema era stato l'incentivo per i miei 4 muri. Senza quel premio tutto per me avrebbe preso probabilmente direzione e sviluppi diversi. Comunque andai ancora una volta a Brema, sempre nell'ambito del cosiddetto premio letterario, e non ho intenzione di passare sotto silenzio l'esperienza che ho fatto in questo secondo viaggio a Brema. Ero uno dei cosiddetti membri della giuria che avrebbe scelto il successivo vincitore del premio ed ero andato a Brema con l'irremovibile proposito di dare il mio voto a Canetti, che, come credo fino a quel momento, non aveva ancora ricevuto nemmeno un solo premio letterario. Quali che ne fossero le ragioni, per me non esisteva allora altro candidato all'infuori di Canetti. Qualsiasi altra ipotesi mi sembrava ridicola. Mi pare ci fosse un lungo tavolo nel ristorante di Brema in cui si era riunita la giuria e attorno a quel tavolo sedeva una schiera di signori con cosiddetto diritto di voto, tra cui il famoso senatore Harmsen, col quale mi intesi molto bene. Credo che tutti avessero già fatto il nome di un candidato e in nessun caso si era trattato di Canetti, quando toccò a me e dissi «Canetti». Ero favorevole ad assegnare il premio a Canetti per il suo Auto da Fé, la geniale opera giovanile che era uscita in una nuova ristampa un anno prima di quella seduta della giuria. Pronunciai ripetutamente la parola Canetti e ogni volta le facce attorno al lungo tavolo si contrassero in una smorfia di disappunto. Molti a quel tavolo non sapevano neppure chi fosse Canetti, ma tra i pochi che sapevano di lui ci fu uno che tutt'a un tratto, dopo che ebbi ripetuto Canetti, disse «Ma pure quello è un ebreo». Poi ci fu solo un mormorio e di Canetti non si parlò più. Ancora oggi mi risuona nelle orecchie la frase «Ma pure quello è un ebreo», anche se non saprei dire chi la pronunciò a quel tavolo. Ma ancora oggi la risento molto spesso, quella frase. È una frase che spunta fuori da un angolino assai inquietante, anche se non so chi l'abbia pronunciata. Quella frase ha soffocato sul nascere ogni ulteriore dibattito sulla mia proposta di assegnare il premio a Canetti. Così avevo preferito non prendere più parte al dibattito ed ero rimasto seduto al tavolo in silenzio. L'ora però era ormai inoltrata e benché nel frattempo si fosse fatta un'infinità di nomi orribili che potevo mettere in relazione soltanto con chiacchiere e dilettantismo, non c'era ancora un vincitore. I signori giurati cominciavano a guardare l'orologio e dalle porte a vento filtrava già il profumo degli arrosti. Così la tavolata, molto semplicemente, doveva prendere una decisione. Con mio sommo stupore, uno dei signori, di nuovo non so quale, tirò fuori dal mucchio di libri sul tavolo, a caso mi parve, un libro di Hildesheim e disse in un tono di sconvolgente candore, addirittura già alzandosi per andare a pranzo: «E prendiamo Hildesheim! Prendiamo Hildesheim!» E Hildesheimer era proprio il nome che mai era stato fatto in tutto quel dibattito durato ore. Adesso, all'improvviso, il nome di Hildesheimer era stato fatto e tutti spinsero indietro le loro sedie e si sentirono sollevati e convennero sul nome di Hildesheimer e nel giro di pochi minuti Hildesheimer fu scelto come nuovo vincitore del premio Brema. Chi fosse davvero Hildesheimer probabilmente lo ignoravano tutti quanti. All'istante fu dato ai giornali l'annuncio che da quella riunione durata più di 2 ore era uscito incoronato Hildesheim. I signori si alzarono e si trasferirono nella sala da pranzo. Il premio era andato all'ebreo Hildesheimer. Per me fu questo il colmo di quel premio. Non potevo passarlo sotto silenzio. Discorso in occasione della consegna del premio letterario della libera città anseatica di Brema. Egregi convenuti, non posso attenermi alla favola dei vostri musicanti. Non racconterò nulla, non canterò, non terrò prediche, però questo è vero. Le favole sono finite, le favole delle città e degli stati e tutte le favole scientifiche, anche quelle filosofiche. Non c'è più un mondo degli spiriti, lo stesso universo non è più una favola. L'Europa, la favola più bella, è morta. Ecco la verità e la realtà. La realtà, come la verità, non è una favola e mai una favola è stata verità. Ancora 50 anni fa l'Europa era tutta un'unica favola, il mondo intero era un mondo di favola. Oggi ci sono molti che vivono in quel mondo di favola, però vivono in un mondo morto e sono anche loro dei morti. Chi non è morto vive e non nelle favole. Costui non è una favola. Neanche io sono una favola, non vengo da un mondo di favola. Ho dovuto vivere una lunga guerra e ho visto morire centinaia di migliaia di persone e altre che ci passavano sopra e proseguivano il cammino. Tutto è proseguito nella realtà. Tutto si è trasformato, in verità. In 5 decenni in cui tutto si è sovvertito e in cui tutto si è trasformato, in cui da una favola millenaria sono nate la realtà e la verità, io sento di avere avuto sempre più freddo, via via che dal vecchio mondo ne nasceva uno nuovo, dalla vecchia natura ne nasceva una nuova. Vivere senza favole è più difficile, perciò è così difficile vivere nel XX secolo. Ormai ci limitiamo a esistere. Noi non viviamo, nessuno vive più, ma è bello nel XX secolo esistere, tirare avanti. Avanti dove? Io non vengo da una favola, lo so, né vado verso una favola. Questo è già un passo avanti e fa già la differenza tra prima e adesso. Ci troviamo sul più agghiacciante terreno dell'intera storia. Siamo spaventati e precisamente spaventati in quanto immane materiale della nuova umanità e della nuova nozione di natura e della natura innovata. Tutti insieme siamo stati nell'ultimo mezzo secolo nient'altro che un unico dolore. Questo dolore oggi siamo noi. Questo dolore è adesso il nostro stato mentale. Abbiamo sistemi del tutto nuovi, abbiamo una visione tutta nuova del mondo e una nuova e in effetti quanto mai eccellente visione di quel mondo che sta attorno al mondo. E abbiamo una morale affatto nuova, abbiamo scienze e arti affatto nuove. Siamo colti da vertigine e sentiamo freddo. Abbiamo creduto che siccome siamo esseri umani avremmo perso il nostro equilibrio, ma non lo abbiamo perso il nostro equilibrio. Abbiamo anche fatto di tutto per non morire di freddo. Tutto si è trasformato perché noi lo abbiamo trasformato. La geografia esterna si è trasformata esattamente come quella interiore. Noi accampiamo ora alte pretese. Non siamo mai paghi di accampare alte pretese. Nessun'epoca prima della nostra ha accampato pretese altrettanto alte. Il nostro esistere è già da megalomani. Ma siccome sappiamo che non possiamo precipitare e neanche morire di freddo, osiamo fare quello che facciamo. La vita ormai è solo scienza, scienza nata dalle scienze. Tutto a un tratto ora ci siamo lasciati risucchiare dalla natura. Abbiamo preso confidenza con gli elementi. Noi abbiamo messo alla prova la realtà. La realtà ha messo alla prova noi. Ora conosciamo le leggi della natura, le infinite, supreme leggi della natura, e possiamo studiarle nella realtà e in verità. Non dipendiamo più da congetture. Guardando dentro la natura non vediamo più fantasmi. Abbiamo scritto il capitolo più temerario nel libro della storia universale. E precisamente ciascuno di noi, per suo conto, tra gli spaventi e nel terrore della morte, e nessuno secondo la propria volontà né secondo il proprio gusto, bensì secondo la legge della natura. E questo capitolo lo abbiamo scritto alle spalle dei nostri ciechi padri e dei nostri stupidi maestri, alle nostre stesse spalle. Dopo tanti capitoli interminabili e insulsi, il capitolo più breve, il più importante. Siamo spaventati dalla chiarezza di cui all'improvviso è fatto per noi il nostro mondo di scienza. Sentiamo freddo in questa chiarezza, ma questa chiarezza l'abbiamo voluta, l'abbiamo suscitata noi. Non possiamo dunque lamentarci del freddo che ora impera. Con la chiarezza il freddo aumenta. Questa chiarezza e questo freddo d'ora in poi regneranno sovrani. L'assenza della natura significherà per noi più alta chiarezza e un freddo molto più feroce di quanto possiamo immaginare. Tutto sarà chiaro di una chiarezza sempre più alta e sempre più profonda, e tutto sarà freddo di un freddo sempre più terribile. Avremo in futuro l'impressione di una perpetua giornata perennemente chiara e perennemente fredda. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per l'onore che oggi mi avete tributato. Bye.